a lavorare, ma non è il caso come interesse. E si accende da solo, diciamo, quando uno parla, lui registra praticamente. E poi, e niente, dipende dalle schede audio che ci metti. Però la realizzazione anche con un baracchino, perlomeno per me, sarebbe semplice. Qualche resistenza, una piccola interfaccia, click e track, pomodori, un po' di salata, un po' di e va bene. Sì, Audacity mi è familiare come nome di programma, però poi non è magari roba che ho trattato personalmente. Bene, qua sembra che sia accettato il tempo. Io purtroppo per l'ora devo necessariamente staccare, perché diciamo che vabbè, mamma aspetta a me per mangiare, quindi se smetto alle 8, mangio alle 8, se smetto alle 9, mangio alle 9, se smetto a mezzanotte, mangio a mezzanotte, quasi dai. Vabbè, considerando che la colazione dovresti essere abbastanza veloce. Oh, yeah. Oggi l'ho fatta anzi presto la colazione, a un orario normale, come un essere umano normale, la vera colazione. Te e... cos'era? Una merendina, eccetera. Non ho tantissima fame, la verità, ho un po' di stomaco disturbato da oggi, ieri, però dai, mi tocca. Ok Gianfra, aspetta, devo dirti solo quella cosa del mai, che di quella parecchietta, poi abbiamo fatto la serata, dai. Ci sentiamo le prossime, non so quando, una settimana, un mese, un anno. Sono sempre poco costante alla radio. Qui prima ero sul 23, insomma, siccome ho memorizzato alcuni canali, modalità memoria, questo ne ha 6 di memorie, credevo M1, M2, credevo fosse il 10, invece era il 23 prima. Ok, dai, va bene Gianfranco, buon proseguimento di serata, buon tutto, io metto in ricezione il 23 e mi dedico ai fornelli, ok? Ciao, buona serata. Ok, Marco, buona serata anche a te, buona cena, buon pranzo, buona colazione. E ci sentiamo, dai, entra ogni tanto così, almeno a parte per me che purtroppo ce l'ho davanti. Riusciamo un po' a allontanarci dal PC. Io ripeto, anche per fare questa cosa lo devo usare, poi è chiaro che lo stress della vista aumenta a dismisura, però per te può anche andare bene stare più in radio, perché almeno ti eviti di perdere anche la vista. Va bene, alle prossime allora, buona serata. Altro che radio, però né computer né radio, dovrei uscire di più e cercare pelo, altro che radio che baracchini e computer. Ciao Gianfra, ciao. No, ce n'è più di quello, oramai c'è tutta la qualunque, non c'è più Ovilu, non ce n'è più, sono tutte tra di loro che non saranno, poi ti denunciano pure, quindi stacci lontana. Secondo me che tipo è? Insomma, sì, è diventato un pericolo tutto adesso, a parte le malattie, se trovi qualche mezza, come si dice, adesso ce l'hanno con i, una cosa psichiatrica, non misogini, porca miseria, su YouTube ne ho visto vari di questi, dice attenzione se trovate un lui o una lei che è, non mi viene il termine, porca miseria, e non è tipo psicopatico, è un altro termine, è comunque una cosa negativa appunto, perché mannaggia la memoria. Infatti, io oramai me lo male, sono entrato nell'età, come si chiama, l'andropausa, quindi quel problema non ce l'ho più, per mia fortuna, devo dire, visto quello che vedo, e quindi oramai siamo nel via del tramonto, dai. Brecco. Ciao Robè, adesso ti mando avanti. Allora, narcisista, ecco, disturbo narcisistico della personalità. Tanti ne parlano su YouTube, ma io non ne ho capito quasi niente, quasi una mazza, devo approfondire. Comunque è sempre di quei rapporti poi malati in cui la persona che affetta ti fa soffrire, tende a fare sempre il suo tutto a suo vantaggio, eccetera, eccetera. Approfondirò poi con calma. Robè, io sto andando ai fornelli, ti saluto, ti lascio con Gianfranco. Vieni avanti, buonasera. Ciao Marco, ben sentito. È buon tutto secondo cosa devi fare. Avanti Gianfranco, a te. Sì, ciao Roberto, buonasera. Narcisista, eccetera, sì, lo dicono sempre quelli dei criminal minds. Quando si tratta di qualche maniaco, Mamma mia, ma già state lontani. Meglio. Ancora buona cena allora, se poi se ci siamo ancora dopo, perché tra poco mi sa che anch'io mi devo mettere il problema, ma ancora è presto, non sono neanche le 7, quindi aspettiamo un po'. Avanti Roberto. Farò la cenare quindi cosa? Marco. No, a colazione. Vabbè che lui c'ha il fuso orario, per lui c'è la colazione a quest'ora, così Marco. Forse è già andato, dai. No, secondo me magari c'è stata una giornata in cui ha commesso l'errore di mettersi magari il fuso orario americano, quando sono 8 ore, quindi di lì, sono tutte di lì, c'è già mattino. Ma penso che ci dovrebbe essere, a seconda dello stato, tra le 6 e le 8 ore di differenza. Quindi lui c'è qualcuno lì. Di lì saranno le 8 del mattino per me, perché adesso sono quasi le 8, dai, saranno di lì. Cattive abitudini, Robè. Cattive abitudini. Purtroppo, infatti, ormai tra fare tutto, cioè pranzeremo alle 7:30 di sera e praticamente sì, mi si accava la talena, praticamente facciamo pranzo unico, cioè pasto unico, basta, che ne so, verso mezzanotte ci mangiamo qualcosa di dolce e boh, è un casino, guarda. Altro che East Coast, qua stiamo arrivando alla costa, stiamo arrivando alla costa californiana, costa ovest, costa Avorio. Costa d'Avorio. Fra un po' arriviamo pure in Australia, mi facendo tutto il Pacifico, ma sono cattivissime abitudini che abbiamo preso. Poi da quando mamma è in pensione, mi soprattutto, se no prima era tutto più normale, più equilibrato. Dai, vi saluto, se non mangiamo. Ciao, ciao, dopo, ciao. E vai con comodo, dai, vai già fra. Sì, comunque Marco qua sto guardando fuori, non ha piovuto niente. Guarda anche localizzata questa pioggia, adesso si è calmato pure il vento. Prima quando ha detto che stava piovendo era fortissimo, adesso sto guardando lì con la luce manica al vento. Ed è di pochissima, cioè no, è moderato, dai, non debole, perché il vento c'è come, però è moderato, prima era forte. Chi ne capisce è bravo di questo tempo, vabbè. E così è un sacco di no, è un'ora, non si sa quanto va a finire. Quindi, una domanda cambiando totalmente argomento. Allora, ieri ho trovato, sono andato a quel mercatino qui vicino alla piazzetta e ho trovato un modulometro della cosa, Racal. Ho guardato su internet, sono abbastanza quotati. La collegamenti l'hai mai fatto tu di quei tipi di apparecchi? No. Il tipo di collegamenti no. Ma presumo che vada interposto tra il microfono l'apparato, se devi diciamo misurare il colore del microfono, oppure dalla parte che potrebbe accettare comunque il segnale che va dal trasmettitore per il doppio alla parte di amplificazione. Ecco, la logica dovresti di metterlo in serie al coso, al microfono, però sarebbe troppo scomodo. Bisogna capire se dietro c'ha delle uscite 44 che ti permette di interfacciarlo, perché c'è un sacco di ingressi. Questo io ho provato a utilizzare solo in ascolto, mettendogli l'uscita cuffia o l'uscita rec del coso, dell'ICR7000, del ricevitore, un po' funziona, cioè diciamo come uno smitter più o meno funziona, però volevo provare modulazione a vedere come va. Sì, vabbè, adesso un po' sorpassato dal fatto che basterebbe un analizzatore spettro, infatti io lo sto controllando la sua modulazione, il analizzatore spettro a grande linea va bene, però certo mi anche sembrerebbe che vada abbastanza fuori, perché fa sospettare che sia stato toccato il gruppo Valdeci, confermi? Non lo so, sinceramente questo apparecchio, questo l'aveva toccato Bianconi. Normalmente Bianconi lui quando fa lavori mette tutto in allineamento, poi non so se si sia spostato. Ecco, adesso andava tutto bene, però ci sono quando uno dice hola, hola, hola, tende a andare fuori, non ho capito il perché. Questo è il 60, tiene presente il suo originale. Sì, a meno che non abbia il compressore in AM. Allora si vede. No, vabbè, il compressore ce l'ha l'altro, la Dunis, questo non ne ha compressore. Dimmi una cosa, cosa sta utilizzando l'analizzatore spettro? Che cosa? È incorporato sull'apparecchio, però dalle recensioni dicono che funziona abbastanza bene, per lo meno dalle delle indicazioni abbastanza sensibili. È incorporato su questo apparecchietto che sto usando, della insomma una nostra marca, dai, non facciamo pubblicità. Sì, no, mi immagino. Quello che volevo dire è, ma è interfacciato a un monitor, ce l'hai o direttamente sul display dell'apparato? No, questo è direttamente sul display dell'apparato. Nell'altro passaggio confermo che abbiamo sei molto largo. Ma allora su certe tonalità come che ti avvicini il colpo al microfono, e allora avrebbe parlato apparecchio. Vabbè, probabilmente qualche cosina sarà da regolare, è stato fatto qualche anno fa questo apparato, per cui qualcosina col tempo tende sempre una deriva, diciamo, a tirare qualche cosa in più o meno da qualche parte. Sì, perché poi questa cosa dipende anche dalla voce, magari ad esempio a me piace modulare lontano dal microfono, adesso sono a una ventina di centimetri perché sono sulla sedia e il microfono è da tavolo ovviamente. L'ho regolato in una maniera diciamo standard, ecco, non mi interessa la radio a tutto volume, preferisco guadagnarci in chiarezza che in volume, soprattutto in AM, perché poi l'AM è terribile su queste cose. L'FM per certi versi è anche peggio perché va su questa distorsione, però l'AM si genera sui fuori e tutte quelle cose, bisogna stare attenti a rimanere entro limiti del 100%, quando fa così vuol dire che c'ha dei valichi oltre il 100. Sì, probabilmente, no, anche io parlo molto distante, normalmente sono sempre seduto in una sedia agevole a una distanza più o meno 50 centimetri. Sì, esatto, lo noto anche quando tossici, quindi se tu dici hola, sarà dire hola, hola, hola. Hola, hola. Diventa terribile. Infatti ecco perché tutti si sono sempre hola, hola, hola per trovare il microfono. Su quello lì diventi molto largo, molto largo. Nel parlato tranquillo invece sembrerebbe regolare, quindi c'è questi puntoni che occupano tutto lo schermo micidiale. Ma tu vedi anche lo spettro di modulazione, cioè oltre il segnale vedi la modulazione, cioè c'hai il grafico che ti dà la larghezza di banda. Sì, sì, proprio come l'analizzatore, anzi ne ho tre, quello che riguarda la frequenza che stai occupando, quindi se uno è su 6.5 o su 8.5 dubito che possa parlare. Poi c'è anche quello, premendo un altro tasto che mi dà proprio la modulazione, mi fa sentire, mi fa vedere o meno quanto è larga la sua modulazione. Quando uno la gestisce praticamente si vedono i picchi che impazziscono. Cos'è senza dire la marca, con la I o con la Y l'apparato? Con la I. Ok, quindi di nuova generazione probabilmente. Sì. Sì, c'è da qualche anno, non è che sia fare. Però è anche uno che è notevolmente superiore, che, però non è un ricevitore professionale, totalmente serier della classe radio. Anche su quello ti fa vedere cose brutte, perché vedi proprio il picco nell'arco da 0 a 50 MHz, oppure lo puoi restringere a piacimento in modo da avere una modulazione più selettiva. Adesso poi l'ho spento, però non scappa nulla, se vede segnali su qualsiasi frequenza, praticamente fino a 50 MHz se lo scopre istantaneamente, perché vedi subito il picco grande e sai istantaneamente dove si trova la modulazione, dove sta operando. Sì, no, quello ce l'ho, no, ma io ce l'ho un misuratore di campo con analizzatore di spettro, quelli che fanno da 25 a 2005 mi sembra che fa, dalla Promax. Quello diciamo più che altro viene utilizzato per fare allineamenti di parabole, di antenne, e più qua quando mi chiedono i controlli audio di modulazione riguardo l'analizzatore di spettro audio, stiamo parlando con tutte le bande, vedo se c'è un po' più di acuti, un po' più di bassi o viceversa, e poi gli do il picco con un indicatore di livello calibrato, così vedo quando esce fuori, gli dico attenzione se è troppo alto, perché molti ascoltano a orecchio con un autoparlantino dal baracchino e non è credibile la regolazione. No, assolutamente no. Infatti stavo dicendo a Marco, ieri è entrato uno, che è un po' camionista, no? E ho fatto la prova di spostarmi su tre canali e adesso non ricordo su che canale era. Però tre canali giù erano occupati, perché tre canali su erano occupati. Adesso non mi ricordo qua il filtro da quant'è, però è totalmente regolabile, puoi stringere fino addirittura, se stringi non senti neanche la radio, si può dire, perché è talmente stretto. Però nonostante stringevi, praticamente due canali sotto se li mangia come nulla, e due sotto e due sopra, di lì in qualche caso erano tre sotto e tre sopra, quindi ti puoi immaginare cos'era. Immagino poi con tutte queste modifiche che fanno solo rumore, secondo me. Sì, manca che stai disturbando mezzo mondo, lo guardi l'analizzatore di spettro. Ho visto una prova di uno di questi baracchini modificati all'analizzatore di spettro, è assurdo. La seconda armonica era una cosa, cioè quasi quanto la fondamentale, era una cosa ridicola. E ho detto sì, ma vedi quanto esce bene, sì, ma meno appunto stai disturbando il mondo. Se tu a quello gli metti un lineare, disturba mezzo mondo. Sì, come ragione l'ho vista anch'io sul doppio modulatore, tutti mettendo doppi modulatori, a dire che qualcuno si metta poi a usare l'analizzatore di spettro, ma neanche ci pensa proprio, questi che li costruiscono, li montano, ma ovviamente quello essenzialmente guarda i suoi affari. E quindi lui prende poi tutto l'altro relativo, però comunque no, se non ci guarda si spaventa sul serio, soprattutto se c'ha le discussioni di quegli analizzatori professionali che ti coprono tutte le HS, come impallidisce. Sì, ma i multipli si inizia a sollevare di potenza, a finire le bande aeronautiche, esattamente la banda aeronautica, e lì con pochi milliwatt, cazzo, disturbi gli apparecchi di coso, i ricevitori o i trasmettitori delle strutture di controllo o del coso, se c'è un'antenna ad alto rendimento, un'antenna base, cazzo, riesci a tirare fuori potenza, li metti magari un lineare un po' grosso, con la terza o la quarta armonica li vai a finire sopra esattamente. Sì, infatti li ho visti. O meglio, li ho sentiti, ogni tanto qua passa l'aereo, dove viene? Ah, ecco, dall'ENAV, ente nazionale, 60 al volo. E li sento perché quando atterra l'aereo da Roma, da Milano, perché oramai i voli sono pochissimi, tra l'altro, perlomeno qua a Fertilia, ogni tanto senti, torre, sentiamo dei disturbi, ci arrivate male, ad esempio. E subito segnalano i piloti perché stanno in protocollo, proprio no, di volo, segnalare anche i disturbi delle comunicazioni. E in effetti, data l'altezza, data la sensibilità dei ricevitori che hanno, probabilmente siano armoniche. E quindi viene il, come era, quel piaggio, hanno un piaggio, piaggio T, 80 credo, quello che c'ha due eliche posteriori che fa un rumore classico, no? E tutti siamo da apparecchiature. E fa anche una ventina di voli intorno in cerchio per capire cosa è, da cosa sono generati questi risultati. Non so se l'ha mai visto l'aereo. Sì, qualche volta è quello che ha le eliche controrotanti nel posteriore. Un aereo particolare della Piaggio, sì sì, lo conosco, bianco che gira, qualche volta è capitato di vederlo. Quello che aveva beccato la Helma, se tu ricordi, qualche anno fa ha preso una denuncia allucinante, con la macchina se ne andava vicino all'aeroporto e disturbava mezzo voce, tutti i voli del coso, appena hanno beccato, l'hanno fatto nuovo, c'è denuncia penale, non so quanti migliaia di euro di multa gli hanno messo, a parte c'è questo delle apparecchiature. Non si ha la connessione, ecco, no? È come prendere la macchina e sapere solo che la macchina va da 0 a 200 e tu per essere sempre primo vai sempre a 200, peccato che tu incontri la tua e pesci. Guarda, adesso sempre continuando con questi disturbatori, vendeva nuova elettronica, la rivista, dava il kit da assemblare oppure se lo volevi te lo compravi pure. Quando stavi al mare, che c'era il periodo dove ci ricordi, la gente con radioni, tu mai volevi stare tranquillo, questi ragazzi con i radioni, musica a tutto volume, eccetera, eccetera, e ti davano un disturbatore che faceva a larga banda, da 0, non so, da 20 MHz a 200, e mandava in larghezza di banda così larga, un segnale continuo, un disturbo, un fischio, un fruscio, e questo tu sei di lì vicino a lui con la radione, lui quello cacchio captava questo disturbo su tutte le bande, si spostava e lo faceva uscire di te. Sì, però se era 0,30 poi magari ritorniamo sempre al discorso di prima, passa l'aereo sopra e riesce a captarlo, capito, quel disturbo, perché anche perché sono disturbi continui, molto penetranti, eccetera. Un altro aereo che passa sempre per fare, e quello può fare tutto, può fare radiomisure e anche radiodisturbi, è un come si chiama quello che iniziamo là? un Airbus M, no, non è un Airbus, lo sto dicendo, inizia con la che tolga anche passeggeri, no? C'ha due eliche e c'è la versione M che c'è la guardia di finanza. Quello è zeppo, mi è passato sopra, ma ha fatto un casino un giorno, ed è stato girando ore e ore, ed è un apparecchio anche quello per radiomisure, ma anche per radiodisturbi, cioè è in grado anche di disturbare le comunicazioni. C'è un'apparecchiatura dentro micidiale, è fatta apposta dal, è proprio assemblata in quel modo per un militare, è micidiale, sapete come quello abbassa? È tremendo. C'era due mesi fa, credo, che ha fatto parecchi giri, ho controllato la fila della guardia di finanza. Atlantic mi sembra che si chiami quello lì. No, non era Atlantic, quello lì era per il per la lotta che sono visibile, adesso li hanno dismessi tutti, adesso ci hanno la persona che faceva la linea a Fertilia Bologna, quel di turbina. Ma questi normalmente vengono utilizzati quando c'è qualche personaggio importante che magari devono disturbare, fare in modo di bloccare i telecomandi, coso di questi, per eventuali ordini esplosivi e cose del genere, mettono questi disturbatori in modo che annientino tutti i segnali. Sì, ma infatti è uno degli usi casuali anche quello, ma anche in caso di operazioni particolari, ecco. Guarda, io leggo tanto, c'ho tante riviste, adesso vabbè, questa non la sto più acquistando perché era una rivista particolare, molto difficile da trovare, era in inglese, poi c'era la traduzione in italiano. Qua in Germania vendevano un kit per disturbare il GPS, per dire, siccome in Germania è coso, come si chiama, quelli che fanno il controllo e tutto, sono tutti collegati alla linea GPS, con questo qui, nell'arco di non so di quanti metri, 300-400 metri, disturbavi, si chiamava proprio disturbatore di GPS, c'era tutto il kit di montaggio, eccetera, c'era tutto questo integrato, e non vendevano, c'era lo schema come costruirlo. Sì, sì. Gli affari che tra l'altro i disturbatori li prendevano anche da fuori, poi non so se li abbiano vietati, perché effettivamente sono molto molto pericolosi. Ma certo, perché sono cose molto, infatti nella rivista non ci assumiamo responsabilità di cosa, però su internet ormai trovi tutto. Quelli vendono e poi è un disastro. Io invece in HF su tante frequenze vedo sempre questi affari, non so se ovviamente con l'analizzatore del spettro si vede meglio, però si sentono anche con un ricevitore che gira velocemente, no? Queste cose le vedi su tutti gli SDR, sono come delle portanti che camminano velocemente. E quello credo che siano dei radar in HF particolari, forse per il controllo delle maree. Molte volte sono dei radiofari, cose del genere, li utilizzano per quello, per le onde, per misurare le onde. Ma ce n'è uno, se tu vai in banda aeronautica, c'è una banda di frequenza, sarà larga, 20 MHz, c'è questo disturbo continuo, non ho capito poi a cosa serve. Può darsi sia proprio uno di quei radar lì. Vabbè, ho detto una fesseria 5 MHz è largo questa cosa qua. E c'è un sacco di attività in questi giorni in banda aeronautica, decine e decine di frequenze che prima non sentivo mai, adesso a tutte le ore le senti, è pieno pieno. Sì, infatti. Dipende, può essere 3.000 cose. Poi bisogna vedere quante, questo 5 MHz la larghezza di banda potrebbe tutti essere un radar. Infatti ho provato a centrarlo io, se non è un radiogoniometro, non lo so, qualcosa di avvicinamento, però ho provato a centrarlo con l'ICOM, c'è la possibilità di centrarlo, non sono riuscito a centrare, a capire qual era la frequenza centrata, era talmente largo che non ci sono riuscito, infatti ho detto questo magari deve essere tipo qualche radar o qualche radiogoniometro di avvicinamento per gli aerei. No, quelli lì c'hanno, diciamo, delle bande molto strette. No, infatti un segnale mai sentito, non riuscivo a capire che cos'era, a meno che c'era una banda dedicata in digitale, che magari io non riesco a ascoltarlo perché sono in analogico, e magari quella banda di frequenza è dedicata, è canalizzata in digitale, che io magari non riesco a prenderla. Infatti, ma guarda, ce ne sono talmente tante di frequenze che usano gli aerei, che io non immagino, una carta è detto. Io non so se tu hai mai usato il programma HFDL, che è un demodulatore praticamente di segnali digitali, è molto rapido e sono proprio dei pacchetti velocissimi in cui ti dà lo status dell'aereo, è utilizzato proprio per la trasmissione dati a grande distanza degli aerei. Ed è sempre attivo, senti mezzo mondo con quel sistema in diretta tra l'altro. No, quello non l'ho provato, quello dell'aereo vedo quello il classico che ti dà la posizione esatta dell'aereo, velocità, altezza, tipo di aereo, destinazione, tempo di destinazione, quello fra i radar 24, quello lì che è interessante, diciamo. Sì. Quello è chiamato la DSD, sarebbe un radar che lavora esattamente a 1090 ed è, diciamo, guardare anche online, oppure lo puoi guardare in diretta. Io ho tre affari di chi se lo fanno in diretta. Ci vuole ovviamente un'antennina che costa un pacco di soldi, tra l'altro è piccolina, che ti devo dire è molto ma molto difficile da costruire, perché devi lavorare a millimetri, tipo le frequenze, cavolo, è una cosa proprio micidiale. E quello c'è un punto proprio di, come si dice, di rilevamento che noi ci abbiamo abbastanza vicino, che è esattamente a Monteforte. Quel pallone che vedi, io da poco ci sono stato anche sopra vicino, fa un rumore di tipo, sente che sarebbe il motore che lo fa girare, e quello lì, diciamo, fa tutti questi rilevamenti di posizione degli aerei in avvicinamento. Ma sei riuscito a salire? Cioè, sempre ho detto, ero curioso di salirci su a Monteforte con la cupola bianca, quello è un radar di rilevamento, di avvicinamento per il coso, quando arrivano gli aerei da tutte le direzioni, quello sta sempre girando, è una cupola, e di lì che è morta quella tipa tedesca, proprio in quell'altezza, si sta mandando quel ponte. No, dunque, tu forse ti dici, adesso non so se sia un'altra quella che dici tu. Una tipa che è morta era quella dell'argentiera, che è andata su quella specie di collina dalla spiaggia e c'è scesa, perché ce l'aveva fatta al revolver, però sai com'è, così ti va bene, domani ti va male. No, Monteforte è proprio una strada che c'è, che tra l'altro si chiama via Monteforte, e da lì sali sul monte, e c'è anche un bellissimo panorama tra l'altro. Ed è la strada, è quello che è, cioè molto brutta, con un piccolo fuoristrada o anche un sub, va bene, ci sali. È proprio questa installazione che sembra quasi mezza abbandonata, speriamo che non lo sia, però è molto grande, è tutta zeppa d'antenne, ci sono anche ripetitori di tutti i tipi e generi, perché sicuramente quello di segnale lo rimandano in aeroporto. Ed è assordante, senti questo vuo, e da lontano sembra una grandicella, da vicino è veramente grande, è un pallone tipo bianco, c'è anche le ringhiere per girarci intorno, è una cosa non bella. È quella lì che sto dicendo, che la notte quando vai verso l'argentiera, la notte quel monte che c'è di fronte all'argentiera, andando alla strada dell'argentiera. Sì, sì, quello lì, bravo. Proprio la strada dell'argentiera. E niente, è proprio una cosa da vedere, anche perché comunque la strada è libera, quindi non ci sono particolari. Ovviamente dentro è chiuso, però ci sono varie palazzine, si vede. La palazzina sembra abbandonata, quasi non vivere, perché c'è anche le finestre sfondate. Però infatti sono rimasto meravigliato che un posto del genere non ci stia avvicinando. Sì, lì proprio caduta, da quella ringhiera ne è caduta la tipa tedesca, era una tecnica, un tecnico di questa ditta tedesca che è venuto a fare la manutenzione, ne è caduta, non so se erano 20 metri, 25 metri da te. Allora è da molti anni, quella che dico io, a parte che credo che fosse dal paese lì, della ringhiera, era al mare tutta la scogliera che c'era dietro. Dietro le miniere, andando alle miniere, quella c'è una specie di promontorio che dà sul mare, però è successo qualche mese fa, probabilmente quello che dici tu è successo qualche anno fa magari, o parecchi anni fa, non so. No, un paio d'anni fa è successo. Come pensano tu, ho capito, ma non c'entra niente, non è niente, quella era una turista che c'è caduta da lì, si è sbattuta agli scudi. Sì, è scivolata e c'è scesa un po'. Un po' la scappata, ecco, più c'è una cosa rotta, è stata una scappata. Quello non lo sapevo onestamente, certo per carità lì, cavolo, devi vedere i casi che ne escono, sono tutti cerflex, io credo che quanto un braccio, una cosa micidiale. Sicuramente dentro, siccome adesso l'hanno rimesso, ci hanno fatto anche la centrale, una piccola cabina elettrica per alimentare il tutto. E come hai fatto a salire? Che cosa hai preso tu per salire? Hai preso la strada di Palmadula e poi? No, allora, la strada proprio che va alla Gentiera. Dopo che passi Palmadula, ovviamente sulla sinistra, andando verso la Gentiera sempre, c'è una strada che si chiama una via, c'è un paese, adesso non mi viene il nome, penso che Palmadula, scusa, era quel paese, mannaggia, vabbè, comunque, c'è questa frazione, passata lì c'è questa via che si chiama Via Monteforte, tu entri dentro e sali sempre lì, un bel pezzo è tutto asfaltato, quindi non c'è problemi, c'è un'azienda anche all'inizio agraria, poi sali più su, finché incontri la strada bianca, a un certo punto si interrompe la strada asfaltata e mette la strada bianca, allora devi risalire, è molto molto stretta, tanto è vero che la macchina, benché fosse piccola, toccava anche sulle portiere, poi mi hanno detto, mi ha detto la forestale che comunque, dopo che gliel'ho detto, un amico della forestale, mi ha detto guarda che di lì, cioè non ci passa neanche la vedetta quando sale su, era un periodo in cui la vedetta non c'era ancora, poi mi ha richiamato e ha detto guarda che se ci vuoi andare vacci, perché adesso l'abbiamo tutta ripulita, ci hanno mandato un escavatore e ha tolto un po' di erbaccia che spuntava, quindi adesso anche su Monteforte si dovrebbe salire agevolmente, tenendo sempre presente le pietre che ci sono state, che non abbiano scavato di nuovo buchi e così via. Poi c'è l'altra strada che da lì stesso porta, allora c'è la vedetta, proprio dove apprezzare, che di lì ci vuole far portare fuori strada, perché era in condizioni tali, con una pendenza tale, che mi ha detto che c'era caduta anche, c'era capovolta anche il coso, il rover dalla forestale addirittura, quindi perché ancora in salita ce la fai con le ridotte, in discesa devi stare attento perché se incontri quel sud ti fate dell'acqua, e quella lì è un poco più giù, quel sentiero poco più giù dalla stazione radio, diciamo, dell'aeronautica che c'è lì. Ma dimmi una cosa, sei da piedi molto lontano dal pezzo asfaltato? Stiamo parlando circa di quanto saranno 6 chilometri, adesso dovrei mettere Google Maps per vederlo. Cioè 6 chilometri a piedi devi fare per salire su? Sì, immagina sì. Cacchio, pensavo di meno, molto di meno. C'è Eugenio? Ciao Eugenio, cacchio, già un giorno senza farti sentire, vabbè anche io, ma pure tu. Salutate l'officina a salutarmi, c'è anche Gianfranco, aspetta lo rilancio, Gianfranco per Eugenio. Sì, lo sento bassino, non so dove sia, non so neanche se sente a me perché io sono con 3 watt, credo. L'ha ascoltato Eugenio Gianfranco? Non lo sento, niente. Diciamo tutto a posto, quello che può andare a posto, e poi ci andiamo a mettere a posto altre cose, come al solito, dai. Ok, dai, adesso ma sei in movimento, Eugenio? Sono dal porto, oggi c'è il mare in burrasca, vabbè già c'è all'interno del porto, ma gli schizzi già arrivano lo stesso. L'hai ascoltato, ti ho detto, da Gianfranco? Gianfranco, vai, dice non ti sente. Sì, io lo sento basso, ma lo sento. Come ricezione, la stazione è formidabile, come trasmissione che c'ho Montero che ascolta, e poi ripeto, sono anche attualmente in bassa potenza, quindi figurati se lui è immobile, sta andando a poco, sentito. Neanche VHF quasi salito. Tu sei un po' chiuso, diciamo, il monte ti chiude se sei dalla parte dal versante. No, tu qua stai arrivando fortissimo, è più del normale, 9,25 sei avrà. Addirittura, guarda, ho esattamente 3 watt e mezzo. Anzi, col picco sono 3 watt e mezzo, senza picco 3 watt. Stai andando alla grande, io quando ti arrivo dalle tue parti. Vado alla pesca, comunque qualcosa dovrebbe essere un 9,10, 9,20. Ok. Ebbene Giuseppe, a che ora smonti tu? A che ora smonti di lavorare? Da dove sta modulando? Monte Oro, così Gianfra, vero, conferme? Più che altro dietro Monte Oro, dai, diciamo così, c'è Monte Oro davanti, e quindi è chiaro che non ha veramente senso. Tu sei Sassari di fronte, quindi sei dalla versante di Sassari, Gianfra? Sì, Sassari ce l'ho a vista oggi. E quindi per quello come si chiama, oggi non riesce a tirarlo fuori o l'ascolto in basso, perché lui è verso Sassari, il versante è verso Sassari di Monte Oro, non è dall'altra parte verso Porto Torres. Aspetta che lo saluto. Ciao Eugenio, fatti sentire più spesso. Ti rilancio a Marco che ti vuole salutare. Ciao Eugenio, ben sentito, mi copi. Ok, ciao, buona serata, ci sentiamo, vero beh, sono in Quelix. Tu stai pompando troppo però, Margolino. Sono miseri 12 watt, col filtro me ne ruba 2, 10 watt puliti. Ok, dai, sto scherzando naturalmente, sta arrivando fortissimo, quasi 9.40, sì, 9.35, sì. E anche Gianfranco, così altro che dice che con poca potenza sta andando. Che antenna sta utilizzando Gianfranco? Ma Green Master. Ah, quindi ha cambiato antenna, qualcosa è successo, dai, un'antenna dedicata qui, diciamo. Beh, sì, questa qua ce l'ho un paio d'anni, non l'ho cambiata, è sempre... quanto sarà? Almeno 3 anni se non ricordo male oramai. E poi ne ho tante altre, ovviamente, però questa per qua è l'ideale. Allora forse sto confondendo stazione, ero convinto che avessi antenne per dedicate altre frequenze e le adattavi, invece no, c'avevi questa qui, come l'ho detto, allora ho detto una fesseria. Sì, c'ho anche antenne che posso trasmettere qua per un orizzontale, capite? Anche una verticale, però è metà sera automatica, non fate più che altro per operare a grande distanza, ecco. Sì, no, non lo sapevo quello, ma mi stavo confondendo, pensavo che tu utilizzassi di recente quelle antenne lì per la 27, invece no, non sei tu, hai sempre utilizzato questo, confondendo forse la stazione, dai, non c'è problema. Comunque ci vorrei salire su quel ponte di avvicinamento che è spettacolare, poi è bella con la cupola da lontano. Sono salito con la... adesso Ausilio, l'hai visto, non è scesa la strada, è crollata la strada per andare a Sant'Antonio su, e ti fanno passare dove ci sono i ripetitori, hanno aperto una strada, per cui tu vai proprio dove ci sono i ripetitori, che prima non ci potevi passare, arrivavi a quello della tele, come adesso ti permette di andare. E c'è una stazione ripetitrice, non so di chi sia, in disuso, tu vedi cosa c'è dentro, buttato, un container con carre Cerflex e parabole, cosa cacchio di roba non c'è dentro, tutta abbandonata, tutta sfondata, non so da quanti anni è spenta quella stazione, adesso è di qualche radio privata o qualcosa del genere. No, questo non lo sapevo, perché c'ero sì andato, però un paio di mesi fa, quando forse c'erano già dei cartelli, però sono potuto passare per andare nella strada classica che va lì alla, come si chiama, la Tale, l'Aquila, non lo so, insomma, dove c'è la chiesa, forse sono salito fino alla chiesa, e probabilmente hanno aperto proprio per salire lì la storina che c'era nei ripetitori, e poi scendi da dietro già, non dico a metà strada, ma quasi, quella strada lì, e poi porta lì, a Bonaria, diciamo così. E c'era un cancelletto, credo, di ferro, una cosa del genere. Sì, no, l'hanno aperta, sono passati con lo scavatore, si è collegata alla strada di Bonaria, sali su al ripetitore, poi di lì si colleva, perché prima non potevi passare, c'era un cancelletto in ferro, dai, cose, in rete metallica, hanno tutto pulito, scendi giù e ti colleghi a quella strada classica di Bonaria, cioè fai quel bypass, salti quel pezzo di Sant'Antonio che è crollato e ti colleghi direttamente a Bonaria. Sono andato domenica scorsa io. Quindi è da poco che hanno fatto questa deviazione, io sono andato qualche mese fa ed era, diciamo, la strada non era messa bene, però insomma, evidentemente queste piogge hanno dato il colpo di grazia. Sì, sì, anche io ce l'ho salito quando c'era, per cos'è, luglio mi sembra, a fine luglio, sì, perché scadeva il 31 luglio, quella cometa che si vedeva, sono salito una notte, siamo passati dalla strada normale, poi sono sceso domenica scorsa, invece è crollata, l'ho chiesto a un amico di Uggio, ho detto no, l'altro giorno, qualche settimana fa è successo ed è crollata, tu ti immagini, se neanche tu hai visto dove è crollato, se passi con la macchina, proprio si è sradicata la strada, ci cade in quel burrone e ti fai 200 metri di volo. È vero, però arrivi subito alla strada che c'è giù. Infatti arrivi direttamente al distributore, cacchio. E quali sono le piogge? A pensare che quando siamo andati non c'era neanche acqua nella fontana. Quindi il secco proprio che si secca tutto, poi d'improvviso l'acqua violenta che scava dove può scavare e distrugge quanto trova. Ma tu pensa solo, per fare quell'apertura, quel pezzo di strada che sarà 300 metri di lunghezza con le curve e tutto, c'è gente che ci abita su, ci sono i pastori, ci sono quello, il rifugio dell'Aquila, che lui c'è quasi sempre di lì, cioè fai conto, l'alloggio del domani rimane completamente isolato di lì. Io penso che almeno 3 o 4 giorni ci abbiano messo per farla con la strada. Vabbè, con l'osservatore già fanno stessa, non è che... E hanno dovuto tagliare alberi, arbusti, macchia mediterranea, cioè non è una male, 3-4 giorni no, ma un paio di giorni ce l'avranno messi. Sì, ma l'importante è che si allarga. È serrata, beh, io sono salito con la multipla, già ci passi, 2 macchine non ci passano, ti devi fermare e farlo passare. Infatti, sto cercando con la strada, ma non ho capito cosa è successo. Oggi è veramente incredibile la cosa. Qual è questa di Monteforte, stai dicendo? No, ti volevo fare la connessione che è lenta perché è dato l'orario. Comunque mi ricordo via Monteforte, era dopo Palmadova, avevo appena lasciato il paese. C'è questa strada, comunque ben indicata. C'è poi un altro Monteforte, non so se sei pratico, sotto Giave, Campo Giavesio, c'è Monteforte, un altro monte che si chiama Monteforte, e poi c'è Rocca Pedra Mendalta, quella rocca che è un meteorite che sembra proprio che è caduta in una piana. Sì, esatto. Di lì non ci sono mai andato, però non lo sapevo, che ci sono vari Monteforte anche in Italia, poi il nome è Monteforte, vabbè, abbastanza comune. Non so se ci riusciamo, sto sempre cercando, perché è proprio Palmadova, e c'è la strada, vediamo un avversario. E su a Corso ci sei salito nell'imbarco, alla stazione ex americana, ci sei mai salito? Sì, da poco, ho fatto tutte quelle zone, l'imbarco è bello, sì, c'è un freddo, nonostante ci fosse quel caldo, giù c'era un freddo cane, però è fatto le prove, e devo dire che da l'imbarco ho portato il vino qua a casa e ci arrivi come niente, ovviamente era in digitale. Poi mi sono fatto Materazzo e poi dovevamo andare a fare anche un controllo lì a Coso, a Bari Urbara, però poi altri problemi, non c'è stata la possibilità. A Materazzo l'hanno riattivato il ponte? No, che io sappia no, perlomeno non si sente più. Ma questo quest'ultimo temporale, visto che ha fatto un casino di danni anche lì, il temporale di questa settimana ha dato onestà a molti punti sotto di grazie. Non so, poi questi temporali quando scaricano così tutta questa energia sono stati prolungati, non so quanti fulmini ci sono stati nell'ora, nell'arco dell'ora, una cosa esagerata rispetto alla media solita. Beh, io guarda, ho avuto vari danni, anche un computer mi ha fatto fuori col temporale, nonostante era attento, sono andato a riaccenderlo e una balla. Ho finito oggi di ripristinare la videosorveglianza, i citofoni che erano partiti, insomma tutto un danno notevole. Due fulmini che sono caduti vicino. Ma ti posso dire che guardando poi anche i filmati, eccetera, per cercare di capire cosa era successo, quella notte era giorno in realtà, era giorno di fulmini. Io non ho mai visto un'intensità di fulmini così, cioè non facevi più a sentire i suoni, praticamente era un tamburo che rullava. E la preoccupazione è quando il tamburo diventava violento, assordante, faceva vibrare anche in fisica, e allora significava che era caduto, però il cielo era illuminato, guarda, di qualcosa tipico dei fulmini da fare paura. Adesso speriamo che la via smetta, ma sembrerebbe che anche la prossima settimana qualche sorpresa ce l'avrà. Sì, ho visto la previsione anche domani, soprattutto c'è, cioè, sarà il vento, però gli eventi temporaleschi ci sono, per domani, dopodomani, poi entra il beccio, scalda un po' le temperature e poi ripartirà di nuovo da capo, quando partiranno le correnti fredde ci sarà di nuovo acqua. Purtroppo i fulmini sono maledetti, c'è un'energia esageratamente forte, lì la Fabrizio cosa li ha combinato. Ma quello era l'altro, se non ricordo male, di qualche anno fa. Però l'anno scorso gli ha fatto un sacco di danno. Sì, ma anche in campagna già lo sai, da una cosa all'altra è già rischio, e quindi proprio di sì. La campagna è bella e quindi devi accettare anche queste cose. Sto parlando su molte cose, che mi fa salire. Mi sta prendendo però il mal di macchina, perché adesso come è calato dall'alto è tutta curva e contro curva. E questa, eccola qua, sono sul cupolone, adesso scendo e ti dico dove mi incrocio. E la strada comunque è lunga. Ma tu hai detto 6 km tutta la strada, compresa con l'asfaltata, sta dicendo. Adesso aspetta un attimino. Non ti dico da dove si entra, però mi sembra dai 6 km col beneficio del dubbio, ma quello che vedo dall'alto potrebbe essere anche di più. Quindi, allora, vediamo se una indicazione, e subito dopo il paese, quindi questo dovrebbe essere formato da San Mario. E giri subito a sinistra, proprio alla fine di questa frazione, che dovrebbe essere formato, ma non mi dà l'indicazione, forse lo c'è. Quindi, ah no, non è formato, ma dice. Allora, prima c'è la corte, c'è un pezzettino di strada, poi c'è. Qua dice Monteforte direttamente, forse è una frazione di Monteforte. Non lo so, io non lo so dire, passo davanti a Palmadula, poi giro a sinistra per andare alla Gentiera e vedo sempre questa cupola, però ho detto chissà come si fa a salire. Oh, dunque, adesso posso essere più chiaro, sono salito un po'. Allora, non è Palmadula è molto molto più avanti. Stiamo parlando esattamente, fanno mi dare così come mi giuro, mamma. 60, ti dico da Palmadula, quanto è distante. Allora, praticamente Palmadula è a 6 km e 6 di distanza da questa frazione che dovrebbe essere Monteforte, ok? Che è subito dopo, adesso non mi ascolto, ecco qua, che è subito dopo la corte. Questa frazione è esattamente di Monteforte, a circa 1 km dalla corte, andando verso la Gentiera, e qui fa, e fin qua ci siamo, giusto? Ma lei si chiama proprio Monteforte la frazione? Sì, esatto. Oh, adesso ti dico, senza fare l'inquadratura di molte forze, a vederla, eccola qua, sì, perché non è una strada dritta, è tutta curva, quindi io ti do la distanza dritta, in linea ottica, quindi, però tu considera che c'è un casino di curve. Allora, guarda, in rettilineo sono appena 2 km, cioè in linea d'aria. Purtroppo la linea d'aria non esiste qua, perché sono tantissime curve, quindi moltiplicano per 4, forse saranno 6 km in realtà, perché se la guardi su Google Earth, che la più precisa, se ne fa una voglia, ecco. In macchina, dopo il primo tratto, dopo l'azienda agraria, quindi la strada peggiora notevolmente. Sì, c'è scritto Monteforte, una frazione del comune di Sassi, situata nel territorio della Nura, subregione storica del nord Sardegna. Altezza 108 metri sul livello del mare, 148 abitanti. È situata lungo la strada che conduce Sassi e l'Argentiera. Esatto, sì. È a 1 chilometro dalla costa. Personalmente su Google Earth si fa vedere anche la stazione radio, il palice enorme. Si vede anche una macchina addirittura che è posteggiata dentro, no anzi no, è posteggiata fuori, magari la nostra quando ci siamo andati è carreggiato, vista dall'alto è imponente, comunque c'è la possibilità, c'è il traliccio grosso che è rosso e bianco, esagonale sembrerebbe dall'alto, e poi a fianco c'è un secondo traliccio che è meno alto, che è tutto pieno di parabole, e poi un ponte radio, non so, che c'è un po' all'esterno di questo agglomerato, poi ci sono varie antenne sul tetto del caseggiato che da vicino sembrano rudere e basta. Quindi adesso ripeto, non so come sia la strada perché ci sono state le chiuse. Però mi avevano detto che la fanno pulita e quindi sicuramente era meglio di quello che abbiamo fatto noi. Però sono tutte frequenze, come si chiama, private, non sono frequenze bloccate, sono tutte cose aeree, bande aeree, bande di coso, varie militari o cose del genere, non c'è niente di broadcasting. No, di lì credo proprio di no, perché è una zona anche zona di Stato, ecco. Non è esattamente zona militare, perché ci sarebbe la vigilanza, non in caso armata ci sarebbe scritto zona militare, quella è di competenza dello Stato, che è l'ENAV, ente nazionale assistente al volo. Quella struttura l'ha costruita la Selex, che oggi è la Leonardo praticamente, che fa le cose proprio per i militari e per i civili professionali, quindi hanno fatto tutta quella costruzione parecchi anni fa, tanti anni fa, ed è proprio un radar per il ADSB praticamente, quindi per il controllo passivo di tutti gli aerei dovrebbe essere, o perlomeno fa domanda e risposta, dai, in modo da avere sempre le posizioni aggiornate. A lei deve esserci anche un gruppo di continuità, una stazione elettrica, in modo che non manchi mai la corrente elettrica, perché deve essere attiva 24 ore su 24. Ah beh, naturalmente sì. E poi si può vedere altri radar, di sono salito in bici, prima di arrivare a Capocaccia, come sai, quello dell'aeronautica militare, di lì ci sono invece radar di scoperta, e quindi anche lì gestiscono il traffico aereo, ma anche quello militare. Ma poi vedo ogni tanto dei punti nuovi, per dire, che poi li demoliscono. C'era quello, ti ricordi tu, qualche anno fa, stiamo parlando una decina di anni fa, aveva montato, appena montato un'antenna, andando verso Macomer, superato Monorva, con la specie di salita. È durata un paio d'anni e l'hanno smontata. Poi c'erano quelle vicino a Olmedo, quelle militari, hanno smontato tutto, non capisco per quale motivo. Allora, sì, c'era c'erano, Olmedo ce n'erano più di una, c'era quella ad Olmedo al Curvone, dove c'era la brigata Sassari, e quella era una bella direttiva che diciamo serviva agli scopi evidentemente della brigata, del reggimento. E poi se proseguivi oltre verso Sciuvighedu, quelle zone lì, c'era un ingresso che adesso credo, cioè adesso non c'è più, erano delle, c'erano di quelle antenne, e di là c'era una sola direttiva, mentre facendo quella strada, proseguendo